sempre forte il cuore, ti senti un fuoco dentro, la fiamma dell'amore più forte ti farà. Troppi sono i vizi di questo mondo infame, quanti parassiti si lasciano fregare, ripeto una distesa di gente rovinata, i fiori nel deserto sono quelli come noi.